Valore medio giornaliero della forza lavoro per numero ore giornata media. Valore medio giornaliero della forza lavoro per numero ore giornata media. Salario invariato, prezzo scende. Salario invariato, prezzo scende. Più basso il prezzo del lavoro, più lunga la giornata lavorativa. Più basso il prezzo del lavoro, più lunga la giornata lavorativa. Più basso il prezzo del lavoro, più lunga la giornata lavorativa. Capitalisti in competizione, prezzo e durata del lavoro a ribasso. Capitalisti in competizione, prezzo e durata del lavoro a ribasso. Oh.